Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa settimana andiamo in onda di martedì, ieri infatti abbiamo lasciato spazio ai commenti sui ballottaggi elettorali e quindi ad un'edizione più lunga di Effetto Giorno. In primo piano oggi il binomio mobilità e sostenibilità, si tratta della sfida fondamentale per il futuro dei trasporti di merci come di persone. È stato questo il tema al centro dell'assemblea annuale di Anita che si è svolta a Mantova. Trasporti sostenibili significa mezzi più moderni e quindi meno inquinanti, alimentazioni alternative, intermodalità efficiente, quindi anche infrastrutture adeguate. Istanze che il mondo dell'autotrasporto, con un approccio diverso rispetto al passato, pone in primo piano, come il presidente di Anita Thomas Baumgartner ha sottolineato nella sua articolata relazione. Lo ascoltiamo al nostro microfono. L'importante crederci che sia possibile abbinare la mobilità alla sostenibilità. Noi siamo fortemente convinti, noi del settore autotrasportatori abbiamo già fatto tanto. Abbiamo ammodernato il nostro mezzo, stiamo sostituendo i vecchi veicoli con nuovi motori di classe Euro 6. Bisogna sempre considerare che 16 veicoli Euro 6 inquinano come anni fa inquinava un veicolo solo, perciò 16 volte meno, perciò potremo aumentare 16 volte il parco per inquinare come prima, perciò abbiamo fatto un passo molto importante, possiamo e dobbiamo fare di più e lo facciamo. Il governo, vediamo, ci sta seguendo, ha attuato dei decreti con legge stabilità che vanno in questa direzione per permettere ai trasportatori di investire in nuovi veicoli, ma anche per convertire il proprio parco per l'intermodalità ferrovia-strada, che può essere un'altra soluzione nella quale direzione vogliamo andare. Secondo Anita e il suo presidente Baumgartner vanno sfatati certi pregiudizi nei confronti dell'autotrasporto, sempre più attento alle opportunità che arrivano dall'intermodalità, cioè da modalità combinate di trasporto che prevedono quindi il trasferimento delle merci anche via ferrovia e via mare. Spesso si pensa, quando si parla di inquinamento, che siano solo i camion e i tir che inquinano. Dati alla mano, sappiamo che anche se la mobilità stradale inquina per l'80%, i grossi camion tir inquinano solo per il 4,3% sul totale dell'inquinamento atmosferico. Questo va tenuto conto, però comunque possiamo fare qualcosa e in questo senso siamo disponibili a investire sul trasporto intermodale. Trasporto intermodale che ha sulle lunghe distanze, parliamo di distanze oltre 500 km, logicamente un ulteriore vantaggio in termini di impatto ambientale. Se il governo ci aiuta ad investire in nuovi parchi veicolari, casse mobili, porto container e così via, siamo pronti a farlo. La legge di stabilità ha previsto una serie di interventi a sostegno delle aziende di autotrasporto che provano a risalire la china dopo gli anni e bui della crisi, anni difficili nel corso dei quali hanno chiuso quasi 20.000 imprese e si sono dissolti oltre 25.000 posti di lavoro. A distanza di mesi però non sono stati ancora varati alcuni decreti attuativi. Sui ritardi ha pesato talvolta anche il passaggio al vaglio di Bruxelles. Sentiamo ancora Thomas Baumgartner. Effettivamente i tempi dalle decisioni politiche affinché vengano poi attuati con le norme attuative, anche per secondo noi sono troppo lunghe, ma soprattutto perché rischiano qualche volta di fermare gli investimenti. Per esempio un'annunciazione che ci verranno date dei contributi sugli investimenti su casse mobili ferma il mercato perché tutti aspettano l'attuazione. Ci rendiamo però anche conto che l'Italia non è da sola, l'Italia deve chiedere l'autorizzazione alla Comunità Europea per fare questi decreti attuativi e forse si potrebbe fare di più, anche noi lo condividiamo, però rispetto agli anni passati già è stato fatto passi più. Ricordo sempre che l'anno scorso il decreto attuativo per i contributi sugli investimenti è uscito solo a fine luglio-settembre e quest'anno noi pensiamo che già adesso fra poco dovrebbe uscire. All'assemblea di Anita ha partecipato anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Del Rio, che da mesi pone la questione della sostenibilità dei trasporti tra le linee guida dell'azione di governo, con progetti ambiziosi come quello di moltiplicare in fretta la quota di merci trasportate via ferrovia attraverso linee capaci di far scorrere convogli più lunghi, fino a 750 metri, e più pesanti, fino a 2000 tonnellate, convogli sui quali devono poter salire anche i semi rimorchi. Di qui le sagome delle gallerie che vanno adeguate alla misura standard di 4 metri. L'Unione Europea ha stabilito che la quota di merci su ferrovia dovrà raggiungere il 30% entro il 2030, oggi in Italia sfiora appena il 7%. A Mantova abbiamo intervistato anche il ministro Graziano Del Rio. Mobilità e sostenibilità, la strada imboccata però ancora piuttosto lunga. Sì, è lunga, però avete visto oggi, non so se diciamo 2 anni fa forse non vi sareste immaginati di che il ministro dei trasporti venisse qua e che fosse diciamo una piena unità di intenti con gli autotrasportatori che hanno accettato di ridurre gli incentivi, gli 0 e 1, hanno accettato di mettere gli incentivi sulla cura del ferro e la cura dell'acqua, quindi mare bonus e ferro bonus, che condividono pienamente che l'orizzonte è quello dello spostamento delle merci da gomma a treno, quindi è una grande rivoluzione culturale che è partita in Italia, che trova una piena condivisione, credo, e quindi io sono molto fiducioso, gli effetti si vedono già, ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, cioè questo spostamento delle merci del 30% non lo vogliamo fare al 2030, ma entro 5 anni, cioè al 2021. Cabotaggio, dumping sociale. Dumping sociale, ho detto. L'Europa fatica. L'Europa fa un po' fatica a far rispettare le regole e questo provoca il fatto che i paesi partono per conto loro, la Francia e la Germania hanno fatto cose per conto loro, noi abbiamo fatto protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno per aumentare i controlli, perché questi autisti che guidano 16 ore senza riposo su camion vecchi, inquinanti, sono un pericolo per la nostra gente e sono anche una concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese di trasporto che sono invece serie e rispettano le regole e pagano i contributi. Quindi nessuna indulgenza verso chi mette in pericolo la vita dei nostri cittadini, la sicurezza e non rispetta le regole per i lavoratori, però abbiamo chiesto anche alla Commissione, proprio discutendo la settimana scorsa, di fare un salto di qualità, perché in questo momento il mercato appare avere delle difficoltà oggettive con questi comportamenti. Del Rio parlava di sicurezza lungo le strade e da questo fronte arrivano numeri poco confortanti. Dopo 14 anni all'insegna di una costante diminuzione, nel 2015 nei paesi dell'Unione Europea gli incidenti sono infatti aumentati. Secondo la statistica elaborata dal Road Safety Performance Index Report, il programma del Consiglio Europeo per la sicurezza dei trasporti, la variazione è dell'1,3%. In Italia l'aumento è stato dell'1,4% stando ai dati ACI Istat. Sulle nostre strade le vittime sono state 3.430, quasi 10 al giorno, 49 in più rispetto al 2014. Diventa così sempre più impegnativo raggiungere l'obiettivo fissato dall'Unione Europea, quello cioè di dimezzare il numero dei morti sulle strade entro il 2020. Tra i singoli paesi, i più virtuosi nel 2015 sono stati Estonia, Irlanda, Lettonia e Lituania, dove si è registrato un calo degli incidenti tra l'11 e il 14%. Dall'altro capo della graduatoria, male Finlandia, Austria, Croazia e Slovenia, con un aumento delle vittime superiore al 10%. L'interporto di Bologna è tra i più trafficati d'Italia, per questo può diventare una platea sulla quale inscenare azioni di protesta anche su questioni che non hanno nulla a che fare direttamente con l'attività della struttura. È quanto è accaduto nei giorni scorsi quando, in solidarietà con i manifestanti francesi in lotta contro le nuove leggi sul lavoro, un gruppo di dimostranti ha bloccato il transito dei mezzi pesanti diretti all'interporto. Pesanti le conseguenze sull'attività delle aziende della logistica, a nome dell'autotrasporto immediata la reazione di Fiap. Abbiamo intervistato il presidente Massimo Bagnoli. Ci siamo trovati ancora una volta, l'ennesima, con le porte bloccate, 110 delle nostre aziende che sono state bloccate all'interporto, che non potevano né entrare né uscire con i camion. E questo ovviamente ci fa un pochettino andare su tutte le furie. Noi abbiamo un settore che è già in difficoltà, se lo si ferma in una maniera coercitiva come è stato fatto martedì, le conseguenze sono sempre economiche principalmente, perché poi si sballano completamente i diari di viaggio ed è un problema. La cosa che ci dà più fastidio è che questo sia protetto dall'autorità, che invece di punire, perché comunque il codice penale queste cose le punisce in maniera abbastanza chiara con l'articolo 610, il prefetto di Bologna preferisce tutelare chi coercitivamente blocca il lavoro degli altri. ogni ora quanti mezzi transitano all'interporto? Diciamo che in una mattina possiamo considerare tra entrate e uscite 2000 mezzi. Ed è un numero molto rilevante, ma consideriamo che è il comparto più importante della regione, quindi lì è uno snodo importantissimo sia per l'estero che per l'Italia, che per il trasporto combinato, per il trasporto ferroviario. È un disastro. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Dalla prossima settimana torniamo alla programmazione ordinaria, quindi ci risentiamo lunedì alle 13.45 in coda ad effetto giorno. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.